momenti in cui ti vuoi fermare, mollare questa giostra, scendere dal bus, schiacciare quel bottone, mollo il ferro a fondo e dite al conducente che si accosti là. Quando hai fatto un mazzo con i due DP, che quando corri e sudi e paghi e pagherai, quando la tua moca sa tutta di fondo, quando va di fango, quando gratti e vinci guai. Se ieri eravamo nella merda fino al collo, oggi facciamo snorkeling e domani forse apnea. Feroce la vita quando morde, ma non mollo. Tanta grossa, sono tutti amici a voce, ma si sa, patetico lo sfoggio, ipocrita saggezza, parole di soffritto e nessuno resta qua. Poi a quel bacchetto senti un tuffo al cuore, un angelo sui tacchi ti resuscita, impari un'altra volta cosa sia un colore, beh c'è ancora fango, but I don't give a fuck.